Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho sentito alla vostra radio l'intervento della dottoressa Toriani sul taglio delle code e delle orecchie dei cani. Il fatto che un Parlamento passi un intero pomeriggio a discutere di una cosa tecnica la dice lunga su come la politica in Italia ami cavalcare solo temi che interessano i media, e il benessere animale ultimamente è uno di questi, per guadagnare facili consensi piuttosto che fare vera politica e occuparsi di temi strutturali. Il tema del denaro pubblico sprecato per non gestire in modo appropriato il randagismo è un esempio di come animalisti, verdi e altri partiti facciano loro questi temi solo per ottenere attenzione dal pubblico, ma siano in realtà poco interessati a una soluzione pratica e tecnica del problema. Sarebbe interessante fare una trasmissione focalizzata sui temi della veterinaria, per vedere quante incongruenze saltano fuori tra il manifesto e gridato interesse per certi temi e la reale volontà di arrivare a una soluzione dei problemi. Altrimenti continueremo a vedere servizi di Striscia la Notizia che, nel bene e nel male, si limitano a denunciare i singoli, senza sollevare le inadempienze di molti politici. L'anagrafe equina è un altro splendido esempio di lottizzazione politica che ha bloccato un percorso a dir poco semplice e veloce. Se i politici si occupassero dei tagli alla spesa pubblica con lo stesso fervore con cui si sono occupati di questo tema e lasciassero chi di dovere ad occuparsi del problema, oggi il disavanzo pubblico sarebbe dimezzato. Marco. Lettera aperta a Cesare Battisti. Signor Cesare Battisti, anche se la parola signore sicuramente non le si addice, sembra che lei sia anche un essere umano. Non intendo affatto parlare di politica, tantomeno emettere verdetti sulla condanna a lei comminata, solamente sottolineare quanto lei sia codardo e vigliacco. Se lei è così certo di essere nel giusto, di aver reagito rettamente o addirittura di essere innocente, abbia il coraggio delle sue azioni, dei suoi pensieri. Torni di sua spontanea volontà e porti avanti le sue tesi in prima persona. Non si nasconda e non cerchi protezioni, né si crei una corte di adoranti non pensanti. I vigliacchi colpevoli scappano, si nascondono, si fanno proteggere e solo così possono sfoggiare il sorrisetto degli idioti privi di spina dorsale. Meglio un criminale con il coraggio delle proprie azioni, che si espone sino all'ultimo, che un essere strisciante come lei. Silvana. Berlusconi l'aveva preannunciato con una cupa frase da brivido. Farò vedere di che pasta sono fatto. Solo perché la Corte Costituzionale aveva negato la sua impunità che violava l'eguaglianza dei cittadini. Infatti ora propone una legge che, pur di salvarlo, fa affogare migliaia di cittadini offesi da reati gravi come stupri, truffe aggravate, corruzioni e concussioni, i cui processi non possono materialmente essere definiti nei tempi stretti indicati da tale legge, lasciando nel contempo impuniti gli autori degli stessi reati. E tutto questo lo fa, come ha dichiarato beffardamente, per il bene del popolo. Fin dove giungerà sulla strada di tale cinismo? Giuseppe. Si dice che il cosiddetto processo breve serva solo a Berlusconi. Io vorrei chiedere a coloro che sono contrari se sono consapevoli che nella nostra società non ci vuole nulla per finire accusati di qualunque crimine e nefandezza. Mi vengono in mente quell'ingegnere accusato di essere una bomber o quelli che vengono accusati di violenze sui figli. A tutti quelli che, pur essendo innocenti, hanno subito una condanna, magari pesante, solo perché non sono riusciti a dimostrare la propria innocenza, va la nostra compassione. Ma a quelli che invece sono riusciti ad essere riconosciuti innocenti solo dopo anni trascorsi tra un tribunale e l'altro, cosa possiamo dire? Forse solo «scusate, ma siamo un po' lenti nei giudizi». Tutto questo per dire che, secondo me, i 6 anni massimi che la nuova legge dovrebbe prevedere sono troppi lo stesso. Al massimo dovremmo avere 2 gradi di giudizio e 2 anni per arrivare a una sentenza. Non parliamo poi dei processi civili. Oggi chi non vuole pagare un fornitore basta che vada in causa e prima di 12 o 14 anni non pagherà. È sufficiente che uno o 2 grossi clienti facciano lo stesso scherzetto perché il suo fornitore fallisca prima di poter incassare il credito. Marino, Como. Egregio direttore, perché si fa un gran parlare del decreto legge a firma Gasparri e Quagliarello che vorrebbe regolare la durata dei processi penali surrogando il lodo Alfano appena abolito, e non si ricorda invece la norma costituzionale per cui le leggi non possono avere validità retroattiva. Le leggi approvate dalle Camere entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma non mi risulta possano avere validità per il pregresso. O mi sbaglio? Agostino, Roma. Sottolineo una delle contraddizioni non dette. Si fa un gran parlare di abbreviare i tempi per le sentenze di divorzio. Per i processi, invece, sono un convinto sostenitore del motto «meglio un colpevole in libertà che un innocente in galera». Le statistiche parlano di centinaia di suicidi in carcere, senza contare i casi di violenza fisica, sodomia inclusa. 14 milioni di multa sono stati già pagati quest'anno per la lunghezza dei processi. Poi parlano e si lamentano di carta e penne che mancano ai magistrati, anziché parlare magari di tempi operativi o di PC spenti per incapacità di utilizzo. Proviamo a immaginare che un padre venga accusato di violenza sessuale nei confronti della sua piccolissima bambina. Si sgola per affermare che non è vero. Le sue richieste di ulteriori esami gli vengono negate. Il caso è chiaro al di là di ogni ragionevole dubbio. Viene condannato. Famiglia distrutta con tutto quello che ne consegue. Dopo 8 anni viene scarcerato perché l'accusa era falsa. Un errore rilevato dopo un ulteriore esame. Si trattava di una rara malattia che aveva colpito la parte anale della sua bambina. A cosa gli servirebbe? Sempre che sopravviva alla durezza del carcere, delle violenze e all'isolamento, la ritrovata libertà. Colui che ha commesso l'errore è stato promosso. Il padre distrutto è portato alla disperazione. E la sua bambina? E la sua ex moglie? Io credo che 6 anni non siano pochi. Sono tantissimi e sconvolgono intere esistenze di quelli che poi risultano innocenti. Sarebbe interessante sapere cosa intendono fare gli appartenenti all'ordine giudiziario per migliorare il servizio, senza chiedere denaro. Peccato che senza soldi in più non siano capaci di alcun miglioramento. Fra 10, 20 o 30 anni saranno sempre lì, a parlare di denaro che non hanno, per poter pensare, prima di fare o decidere. Enzo. La democrazia si fa con i diritti paritari e con gli strumenti che garantiscono la concorrenza leale. Se blocchiamo il valore delle monete, sicuramente si avrà un equilibrio migliore in un'economia globale. Sono convinto che negli anni a venire il mondo avrà bisogno di semplificare l'interscambio e la comunicazione. I governanti democratici dell'Occidente devono dare al resto del mondo la consapevolezza dei diritti fondamentali umani, a prescindere dai vari credo religiosi. La convergenza verso una carta paritaria di diritti e doveri deve appartenere a tutti. Può essere la base di lotta politica verso l'irreversibile globalizzazione. Il primo passo da fare sarebbe quello di bloccare il valore monetario e non valutario tra euro e dollaro. Questo eliminerebbe molte problematiche causate dalle speculazioni, garantendo una maggiore democrazia tra gli stati occidentali. È chiaro che questa soluzione dovrebbe essere provvisoria, con l'obiettivo di arrivare poi ad una vera unificazione monetaria globale. Appianando le barriere monetarie con il resto del mondo occidentale, si renderebbe più veloce l'interscambio e questo permetterebbe una competizione paritaria con le concorrenze orientali, non certo demograficamente, ma almeno nei mezzi. Caro direttore, la politica è impegnata ultimamente a scontri di periferia e non affronta i problemi che l'economia globale ci pone. Si trascura il ruolo fondamentale che il nostro paese può intraprendere per lo sviluppo socio-economico-culturale, ma soprattutto per la cultura democratica che i nostri padri costituenti ci hanno lasciato in eredità grazie alla liberazione e che noi possiamo tramandare ad altre realtà meno abbienti di questo mondo. Le beghe interne sono per noi la cosa in assoluto più importante? Ricordo che i problemi di ingiustizia sociale esistono da che mondo è mondo e che la Chiesa è impegnata nel Terzo Mondo ad aiutare popolazioni che muoiono di fame. Dimentichiamo spesso queste realtà positive. Spero che i media si concentrino sulle cose positive, nel ricordo del nostro beneamato Papa Giovanni Paolo II. I media, allora, erano impegnati nel mostrare il fascino del bene, mentre ora sono interessati solo al fascino del male. Per par condicio, si dovrebbe equilibrare il tutto. Luigi. Onorevole Berlusconi, non sono mai stato un suo elettore, né mai sono stato malato della fobia berlusconiana. Non la ritengo né un martire né un diavolo. Penso che lei abbia avuto principalmente la funzione storica positiva di aver fatto uscire la destra dalla casta degli intoccabili, in cui dalla fine della guerra agli anni 90 è stata confinata per pagare gli errori del fascismo. Ma ora la sua spinta propulsiva è finita. Dall'ultima vittoria elettorale travolgente non ha più portato nella vita pubblica del paese alcuna novità di rilievo. Ha affrontato la crisi economica ancora in essere senza nemmeno improntare le riforme strutturali di cui l'Italia necessitava. Non si è reso disponibile a un dialogo bipartisan per le riforme istituzionali. Ha curato i mali del bel paese cercando di far scorrere il tempo, limitando i danni. Onorevole, il tempo da solo non guarisce tutto. Occorre anche il coraggio delle riforme. Il paese non può vivere, secondo il motto andreottiano, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Non ce lo possiamo più permettere, né a livello economico né a livello istituzionale. Lei è un uomo solo, circondato per volontà sua, da persone la cui unica attitudine è il servilismo fine a se stesso. È solo perché i suoi alleati o collaboratori più intelligenti li ha allontanati, dato che non vuole successori. Si renda conto che il tandem Fini Casini è pronto a prendere il suo posto. Non si ostini a resistere e ceda il passo a un governo di larghe intese che compia le riforme necessarie. Riforma elettorale, federale e istituzionale, fiscale. Onorevole, non faccia pagare al paese il costo della sua paura di invecchiare. Si ricordi che la caduta degli dèi è sempre rovinosa. Massimiliano. Egregio direttore, le sembra logico che un presidente faccia quello che gli pare e che l'opposizione dica tutto il contrario, facendo però sia il proprio gioco che quello dell'altro? Dopo 15 anni di litigi, siamo ancora a parlare delle beghe di Berlusconi. Spero vivamente che Bersani sappia cogliere l'occasione per proporre a Berlusconi un nuovo lodo Alfano, questa volta costituzionale e corretto, che stabilisca che a fine legislatura qualsiasi persona indagata non possa più ricandidarsi, fin tanto che i suoi problemi giudiziari non saranno risolti. Berlusconi potrebbe finire la legislatura senza scuse, si potrebbe fare una vera riforma della giustizia insieme e cercare di affrontare le difficoltà con riforme condivise. Ma sembra che ognuno voglia proseguire con i soliti discorsi. Berlusconi che si lamenta perché ci sono ancora i comunisti e il PD che dice che Berlusconi non deve governare. Speriamo che Bersani voglia fare il gran passo, altrimenti ci aspettano ancora 3 anni e passa di litigi e senza riforme. Saluti, Luigi. Caro Luigi, la sua proposta è altrettanto temeraria quanto interessante. Secondo lei, il nuovo segretario del PD, Bersani, dovrebbe agevolare la proposta del Presidente del Senato di far approvare dalle Camere un nuovo lodo Alfano, ma sotto forma di legge costituzionale. Sarebbe un modo per superare il nodo della Consulta e anche per evitare i tempi lunghi e i rischi che ci sarebbero sicuramente se la modifica fosse approvata con una maggioranza inferiore ai 2/3 e quindi se si potesse chiedere un referendum. Ma il voto favorevole dell'opposizione all'immunità per Berlusconi fino alla fine della legislatura è di fatto un'impossibile proposta di buonsenso. Nell'attuale clima politico è anche necessario essere realisti e allora non mi sembra, e devo dire purtroppo, che esista la minima possibilità di un accordo tra maggioranza e opposizione. E per di più sulla giustizia, un tema altrettanto importante quanto estremamente complesso e su cui fanno leva troppi interessi di parte. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.